Perfetto giorno di Simone Spezia. Corea, preparativi per un nuovo lancio di un missile. Arriva l'attesa reazione cinese. Pechino presenta una protesta formale. Il superi di Rimini, l'uomo arrestato mentre era in fuga, nega le violenze. Attesa la convalida del fermo. Vaccini e iscrizioni a scuola. La Lombardia prende tempo sulla proroga di 40 giorni dopo la circolare del Ministero. Fermato un uomo per la scomparsa di Maëlys, la bimba francese della quale sono perse le tracce da 10 giorni. Ed è in manette il re della coca milanese. Il boss dell'andrangheta Rocco Morabito era in Uruguay e si faceva chiamare Sousa. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno. Inizia dunque una nuova stagione anche di questa trasmissione, sempre con lo stesso stile e nonostante ci siano grandi novità di palinsesto, come avete sentito, Luca Telese la mattina dalle 6.30 e poi il nostro Alessandro Milan dalle 9 alle 11 con Funamboli, il nuovo appuntamento di Deborah Rosciani e Mauro Meazza e molto altro anche all'interno del fine settimana. Un bentornati, anche se ascoltatori più fedeli di Radio 24 si saranno accorti che in agosto ci sono stato qualche volta con la sostituzione di Sebastiano Barisoni in Focus Economia e poi con una trasmissione che vi raccomando di riascoltare e scaricare in podcast, si chiama Codice Sorgente, l'abbiamo firmata Enrico Pagliarini ed io. Sono 5 puntate nelle quali cerchiamo di analizzare con degli esperti e non solo l'impatto delle nuove tecnologie. Tra un attimo andremo a parlare di Corea, ma prima fatemi aprire questa puntata di Effetto Giorno e dunque questa settimana e dunque questa nuova stagione con una di quelle notizie che vi faranno un po' imbestialire, ed è una notizia che è arrivata pochi istanti fa e riguarda la strage del Rapido 904. È una strage che risale al 1984. Il processo vede coinvolto come unico imputato Totò Riina, e ne abbiamo parlato spesso anche nei mesi scorsi. Ebbene, è arrivata poco fa la notizia che occorrerà ricominciare da capo il processo d'appello a Firenze. E perché? Perché il giudice va in pensione. Sarà necessario risentire tutti i testimoni ascoltati in primo grado, oltre alle nuove testimonianze di sei boss che si era deciso di interrogare in appello. E chissà quando arriverà la fine di questo processo, se Totò Riina, e quindi l'unico imputato, sarà ancora in vita. Iniziamo però andando all'estero dunque ed andando in Corea per gli aggiornamenti appunto dalla Corea e sulla situazione della crisi dei missili. Si riunirà alle 15 italiane il Consiglio di sicurezza dell'ONU, unanime per ora solo nella condanna a Pyongyang. Perché se Stati Uniti e Gran Bretagna sono almeno a parole più interventisti, la Francia è più inclina a nuove sanzioni, che invece Russia e Cina giudicano poco efficaci, preferendo più dialogo e negoziati. Intanto i vicini, Giappone e Corea, sono impegnati in frenetici contatti con tutti i possibili interlocutori e Seul, che avrebbe rilevato i segnali di preparazione di nuovi lanci da parte di Pyongyang, si esercita in manovre militari con munizioni reali, simulando un attacco sul poligono di tiro nucleare nordcoreano. Il governo sarebbe pronto anche a dare il via libera al completamento del sistema antimissile americano sul suo suolo, che era stato fermato in primavera. All'ipotesi del presidente Trump di fermare i commerci americani con i paesi che hanno rapporti con la Corea del Nord, reagisce veemente la Cina. Non è un approccio equo, dice, sarebbe inaccettabile lavorare per una soluzione pacifica mentre i nostri interessi sono soggetti a sanzioni e messi a rischio. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ovviamente prima in apertura non vi ho ricordato i contatti, ma ormai li conoscete, 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la nostra pagina Facebook dalla quale stiamo andando in diretta. Sulla Corea sentivamo il bisogno anche di un'analisi perché Paolo Magri, direttore dell'ISPI, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. A volte in maniera un po' macchiettistica noi giornalisti tendiamo a descrivere questa vicenda e lo scontro tra la Corea del Nord e l'America di Trump come lo scontro tra un pazzo e una testa calda. In realtà ci sono delle strategie dietro, e quali sono, se riusciamo a riassumerle in breve? Beh, quella di Kim è chiarissima. Il leader nordcoreano sa benissimo che la corsa all'arma nucleare costituirebbe la più importante, la principale garanzia, assicurazione per la vita al suo regime. Una volta che arrivasse all'arma nucleare sarebbe di fatto inattaccabile, perché nessuno correrebbe il rischio di attaccare una potenza nucleare rischiando un'escalation appunto nucleare. Quindi nella pazzia e anche nella macchiettistica che in effetti il personaggio suscita frequentemente, c'è una strategia chiara e precisa e, ahimè, una strategia chiara e precisa che lui sta riuscendo a portare avanti, perché passo dopo passo, il sesto test nucleare, il 18° lancio di razzi a lunga gettata, il percorso per arrivare al nucleare è sempre più probabile. Forse non è ancora certo e confermato ora, ma la direttrice è quella. Per quanto riguarda invece l'America, come si sta muovendo e come si sta muovendo anche la Cina, cioè le due grandi potenze coinvolte? Sì, sono i due interlocutori primari. Beh, l'America alterna le minacce di Trump via Twitter e non solo, ai raffreddamenti dei vertici militari che ricordano a se stessi, al mondo e al presidente che un attacco preventivo americano avrebbe una conseguenza immediata, un controattacco, una risposta d'attacco da parte del regime nordcoreano. Senza armi nucleari non sono necessarie, il regime nordcoreano dispone di armi convenzionali in grado di attaccare in pochi minuti Seoul, la capitale della Corea del Sud, una città di 10 milioni di abitanti, in poche ore ci sarebbero migliaia di morti. E per quanto riguarda la Cina invece? La Cina è chiaramente indispettita da quanto sta succedendo, perché non vuole avere un confinante un paese nucleare e perché non vuole che Corea del Sud e Giappone usino questa presunta, probabile, futura arma nucleare nordcoreana per dotarsi anche loro di armi nucleari e sono alleati degli americani. È indispettita, ma non al punto di accettare un rafforzamento delle sanzioni, che sarebbero contro di sé, in primis, o un intervento militare. Non vuole un crollo del regime che porterebbe a un'ondata umanitaria di migliaia, milioni di persone verso la Cina, non vuole, e qui è solidale con la Russia, privarsi di una spina nel fianco nei confronti degli americani che può utilizzare di volta in volta come merce negoziale su altri scacchieri. Grazie dunque a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per la chiarezza, la sintesi e la rapidità. E noi passiamo alla cronaca italiana e andiamo a Rimini, dove è stato interrogato il presunto capo del branco di stupratori e oggi è attesa appunto la convalida del fermo. È attesa in giornata la convalida del fermo di Guerlin Butungu. Interrogato dagli inquirenti, il ventenne congolese ieri ha negato di essere il capo del branco responsabile delle violenze sessuali commesse a Rimini nella notte tra il 25 e il 26 agosto ai danni di una coppia di turisti polacchi e di una trans peruviana. Era lui a dirci cosa dovevamo fare, hanno invece raccontato i due fratelli marocchini di 15 e 16 anni che sabato pomeriggio si sono costituiti nella caserma dei carabinieri di Montecchio di Pesaro. Il congolese, che aveva un permesso di soggiorno per motivi umanitari, stava cercando di fuggire in treno, ma la polizia, che era sulle sue tracce, lo ha intercettato e bloccato all'alba di domenica nella stazione di Rimini. Qualche ora prima era stato fermato anche il quarto componente del branco, un nigeriano, anche lui minorenne. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di questo torneremo tra l'altro a parlare più avanti in effetto giorno nel nostro giro per l'Italia, ne parleremo con la dirigente del servizio centrale operativo che si è occupata di tutta l'operazione, insomma la poliziotta che ha portato all'arresto di questi uomini. Un uomo di 34 anni intanto già fermato la settimana scorsa è stato arrestato per la scomparsa di Maëlys, chi è la bimba di 9 anni che è sparita in Francia 9 giorni fa. Per la procura l'uomo è indagato per sequestro e detenzione di minore. L'uomo ha confermato che la bimba sarebbe salita nella sua auto, ma ha sostenuto che poi sarebbe andata via. Veniamo al fronte dei vaccini, al quale tra l'altro Radio 24 sta dedicando un viaggio tutti i giorni nel GR delle 7 in vista della riapertura delle scuole, perché come sapete, o quantomeno come i genitori sanno, è in vigore la legge che prevede che i bambini non vaccinati non possano iscriversi all'asilo, nido o alla materna, ed è e prevede anche che ci siano multe per i genitori di figli non vaccinati che vengono iscritti agli altri ordini scolastici. Al centro della scena oggi la Lombardia. Si allenta il braccio di ferro tra Regione Lombardia e Governo sui vaccini. L'ultima parola spetterà ad una prossima riunione di giunta fissata nel pomeriggio, ma le richieste avanzate dalla Regione, chiarisce il governatore Maroni, sono state parzialmente soddisfatte dall'ultima circolare diramata il 1° settembre dal Ministero dell'Istruzione e Salute, secondo la quale basta anche autocertificare di aver prenotato la vaccinazione alla ASL per poi mettersi in regola in seguito. Le nostre esigenze sono quelle di rendere più facile l'attuazione di questa norma a tutti i cittadini. Non vogliamo uno scontro col governo non mi interessa. Abbiamo parlato con la ministra Fedeli, io ho parlato, ci siamo chiariti, non c'è una posizione, qualche modo di conflittualità. Vogliamo risolvere il problema con il solito metodo della forte e leale collaborazione tra istituzioni. La regione, lo ricordiamo, era arrivata allo scontro con il governo perché avrebbe voluto concedere una proroga di 40 giorni in deroga a quanto previsto a livello nazionale per gli asili nido di competenza regionale. Non una posizione contraria alla legge, ha chiarito Maroni, ma solo la volontà di coinvolgere le famiglie in un percorso di maggior consapevolezza. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Veniamo alla Germania. Ieri si è svolto il confronto tra Angela Merkel e Martin Schulz in vista del voto che ci sarà il 24 settembre. Il giorno dopo, i sondaggi delle TV e le pagelle degli analisti rispecchiano quello che nelle previsioni dovrebbe essere il risultato delle urne. Angela Merkel vince il primo e unico confronto TV con lo sfidante Martin Schulz, dopo 90 minuti di duello su migranti, pensioni ed alleanze. Ma su un tema, la cancelliera che punta al quarto mandato e l'ex presidente del Parlamento europeo sono praticamente d'accordo. La Turchia di Erdogan è fuori dall'Europa. Se divento cancelliere interrompo i negoziati, promette il candidato dell'SPD. Un ingresso nell'Unione non l'ho mai visto e i negoziati non esistono, replica Frau Merkel. Una posizione che stuzzica la reazione piccata di Ankara, secondo cui entrambi i candidati hanno ceduto al populismo. I rapporti con la Turchia, resi ora ancor più tesi dopo l'arresto di alcuni cittadini tedeschi, si incrociano con la crisi migranti e con la Willkommenspolitik della cancelliera nel 2015. Fu sbagliato, attacca Schulz, aprire le porte ai rifugiati senza consultare i partner. Era necessario prendere una decisione, replica calm la cancelliera. Non c'è spazio per la Merkel per nessuna possibile alleanza, né con l'estrema destra di Alternative für Deutschland, che punta al terzo posto, né con la sinistra della Linke. Una garanzia che invece non può dare lo sfidante Schulz, che comunque si è difeso bene e che ora invoca un secondo confronto. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. È stato arrestato questa mattina un importante latitante, si tratta di Rocco Morabito, latitante da 25 anni ed è stato arrestato in Uruguay, si tratta di un boss dell''ndrangheta che era considerato il re della cocaina milanese, in Uruguay appunto si faceva chiamare Sousa. Cambiamo decisamente argomento e andiamo a Venezia per la mostra del cinema. Siamo in linea con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta, mi sembra che sui giornali, in giro, sui social non si parli di altro che di Virzì. Se ne parla molto, sì, perché ha colpito molto. Allora, il pubblico conquistato 7 minuti di applausi, la critica italiana estremamente favorevole, un po' più cattivelli gli americani. Dopotutto questo è un film di un regista italiano che si cimenta in un road movie americano con due grandi attori come Helen Mirren e Donald Sutherland. Insomma, gli americani non sono stati del tutto contenti, ma quello che conta è che è piaciuto moltissimo al pubblico alla prima proiezione, quella insomma ufficiale della Sala Grande. 7 minuti di applausi. Paolo Virzì era molto molto preoccupato per il debutto di questo suo Leisure Seeker, la storia di due anziani in un viaggio sulla East Coast degli Stati Uniti. Sono molto malati, ma ne succederanno tutti i colori. Ecco, abbiamo sentito Paolo Virzì che ci ha detto perché era molto preoccupato. Ero venuto in concorso qui 20 anni fa, proprio 20 esattamente, e mi ricordo la sera prima della proiezione ero tranquillo, ho dormito benissimo, invece 20 anni dopo non ho chiuso occhio, quindi vuol dire che col tempo non si migliora. Non lo so se questa cosa ha a che fare anche col film che ho fatto, cioè in effetti c'è una certa messa a fuoco della parte della vita così, anche se è un film che in qualche modo cerca di raccontarla tutta la vita attraverso questo tragitto di questa fuga irragionevole, folle, gioiosa, dolente, straziante, questo bisticcio di devozione che anima questa relazione. Quindi stanotte sì, ero fragile e disperato, dicevo, mi fa piacere invece che sembrerebbe che l'abbiamo sfangata. E Simone, invece accoglienza tiepida per un altro degli italiani in gara questa mattina per Una famiglia di Sebastiano Riso con Micaela Ramazzotti e Patrick Bruel c'è stato anche qualche bu. Invece vi anticipo già applausi scroscianti, un film da leone, qualcuno dice anche già da Oscar, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Il titolo è difficilissimo, è la storia diretta da Martin McDonagh, ve ne parlerò nelle prossime edizioni del Giornale Radio, un film davvero straordinario. E grazie dunque alla nostra Marta Cagnola per questo aggiornamento alla Mostra del Cinema di Venezia. Ovviamente continueremo ad aggiornarvi su questo. Veniamo in chiusura di questa prima parte della trasmissione allo sport, per parlare di un fine settimana di crolli, quello della Nazionale, quello del Ferrari. Settembre è tempo di batoste, ne usciamo male da questo weekend sportivo. Sabato sera a Madrid schiaffi e torelli dalla Spagna, ieri a Monza umiliati senza speranze dalle Mercedes, pur con le dovute differenze, un bello smacco per i nostri simboli nazionali. Meglio le Ferrari, perché almeno Vettel conquista il terzo posto, ma la sostanza non cambia, al punto che Marchionne sbotta e dice: una differenza imbarazzante, mi girano le balle. Avessero girato così anche le Ferrari, avremmo vinto. Peccato, proprio mentre il premier Gentiloni dice che la notte è passata, che l'Italia ha superato la crisi peggiore del dopoguerra, il nostro Made in Italy sportivo collassa per contrappasso. Si potrà rimediare. Da qui a novembre il cavallino ha 7 Gran Premi, più o meno lo stesso tempo che l'Italia di Ventura ha per qualificarsi ai mondiali in Russia. Non sarà facile, soprattutto per la nazionale. L'unico modo per risalire la china è forse tornare ai sacri principi di un tempo, sapere che siamo scarsi. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eh sì, ci ricorda giustamente un ascoltatore anche il KO dell'Italia agli europei di basket, 73-78 contro la Lituania, ad aggiungersi a queste sconfitte della nazionale di calcio e della Ferrari. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, dunque il traffico, poi ci troviamo con il nostro giro per l'Italia, torneremo a Rimini per la vicenda degli arresti per gli stupri e poi il numero chiuso alle università. Come sapete ormai, perché l'avrete letto, il TAR ha deciso che il numero chiuso per la Lombardia, per l'Università Statale di Milano, non si può fare per le materie umanistiche. La statale farà ricorso al Consiglio di Stato. Nel frattempo ci sono altre università, come quella di Torino, che invece decidono di ridurre le facoltà a numero chiuso. A tra poco. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video. A proposito di vaccini, prima di iniziare il nostro giro per l'Italia, ci segnala un'ascoltatrice, dice: c'è un fatto assurdo, alcune scuole possono fare l'obiezione di coscienza, ci dice. Mi sembra piuttosto strano e non mi pare che la legge lo preveda. Sappiamo che alcune associazioni di queste Novax hanno pensato a un'idea di questo genere. Non crediamo che sia possibile, però ci informeremo e magari nei prossimi giorni ci torneremo. Veniamo alla vicenda degli stupri avvenuti a Rimini, l'aggressione ai danni di una coppia di turisti polacchi e poi l'aggressione e la violenza sessuale nei confronti di una trans e agli arresti che ci sono stati. Voglio salutare Francesca Capaldo, che è la dirigente, il capo della sezione dello SCO, il servizio centrale operativo, che si è occupata della vicenda e che si occupa specificatamente di violenza di genere. Dottoressa Capaldo, buongiorno, benvenuta, innanzitutto complimenti per l'operazione e per la rapidità nell'arresto di queste persone. Buongiorno a tutti e grazie. Noi siamo stati contentissimi di essere arrivati a questo risultato in tempi brevi, soprattutto per cercare di dare una risposta e giustizia a queste donne che hanno subito queste violenze così crudeli. Ed è un gruppo di donne, tra l'altro, che ha lavorato su questo, in gran parte quantomeno. Sì, in gran parte è un gruppo di donne, c'è stata una grandissima sinergia tra noi, è stata realizzata una task force con gli investigatori della squadra mobile di Rimini e con quelli dello SCO, della sezione che io dirigo, ma anche con la Polizia Scientifica di Bologna che è retta da una donna e con i colleghi della Polizia Scientifica di Rimini e del Servizio Polizia Scientifica di Roma. Tra l'altro anche la PM è una donna, se non erro, insomma, la PM sì, che si sta occupando della vicenda. Che cosa l'ha colpita di quello che ha trovato, delle persone che ha arrestato? Ma in realtà mi ha colpito soprattutto nel confrontare quanto abbiamo appurato e quindi la brutalità di queste violenze, mi ha colpito l'apparente fragilità di questi ragazzini piccolissimi e soprattutto il fatto che non avessero contezza reale di quanto fatto. Quasi come se fosse una sorta di video, per così dire, no? Sì, come se avessero vissuto in una realtà virtuale e parallela che però noi abbiamo visto e abbiamo accertato essere scandita da una brutalità e da una ferocia fuori dal normale. Mi dica una cosa, il metodo che avete utilizzato per arrivare alla cattura di queste persone, questo lavoro in tandem, in squadra, è un metodo già utilizzato, intendete riutilizzarlo? Assolutamente sì, questo è un lavoro di squadra che ha visto, come le ho detto, l'impegno e la costanza giorno e notte in questa settimana di tutti ed è assolutamente consolidato, è quello che portiamo avanti nei casi di questo tipo, nelle violenze così efferate, nelle violenze di gruppo ed è assolutamente vincente perché è stato caratterizzato dall'apporto di tutti, in realtà è stato un lavoro di squadra e questo è stato pagante. La ringrazio, grazie Francesca Capaldo, ancora complimenti per il vostro lavoro e in bocca al lupo per il futuro, sperando che non si debbano più trattare o il meno possibile casi di questo genere. Veniamo a parlare del numero chiuso alle università, i corsi universitari a numero chiuso, come sapete, come abbiamo raccontato, il TAR ha respinto la possibilità per l'Università Statale di Milano, che dunque ha dovuto annullare i test che si sarebbero dovuti svolgere questa mattina, di fare il numero chiuso per alcune facoltà umanistiche e l'Università Statale di Milano ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato. Nel frattempo la questione è all'esame del Ministero dell'Istruzione, che verificherà se ci sono proprio degli errori nel provvedimento preso dall'Università che ha consentito poi al TAR di prendere questa decisione. Nel frattempo in altri luoghi d'Italia, e nemmeno troppo lontani a dire il vero perché siamo al nord e siamo a Torino, si decide di ridurre il numero di facoltà a numero chiuso e scusate la cacofonia. Gian Maria Iani è il rettore dell'Università di Torino. Rettore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, come vi state muovendo? Innanzitutto ho sentito la sua premessa, diversificare molto la situazione lombarda da quella piemontese. In Piemonte ci sono due atenei cosiddetti generalisti, l'Università di Torino e Piemonte Orientale. In Lombardia forse per difetto, dico, saranno 12 gli atenei, quindi il problema piemontese è che mantenere i numeri chiusi significa costringere gli studenti a emigrare, il che non è una politica saggia, viola il diritto allo studio e rende difficile lo sviluppo in università di questi ragazzi. E va bene, questa è la differenza tra quindi il contesto è diverso e c'è un interesse maggiore, la spiego così, da parte dell'Università di Torino a mantenere, per così dire, gli studenti all'interno della regione, all'interno anche della regione Piemonte e in particolare della città di Torino. Ma poi quello che voglio capire io è come vi state muovendo, perché se c'è un problema, il numero chiuso si fa perché? Perché c'è sovraffollamento, ci sono pochi professori, le dimensioni delle aule non sono adeguate, eccetera eccetera, e quindi voi in qualche modo questo problema lo dovrete risolvere, no? Come? Certo, noi il problema ce l'abbiamo, come ce l'ha Milano Statale e gli altri atenei pubblici. Abbiamo fatto un censimento del carico didattico dei nostri docenti, scoprendo che c'erano degli spazi per poter colmare la richiesta di didattica. È stata una forte disponibilità dei colleghi nel fare questo, tutti sono oltre il numero di 120 ore di didattica di legge, quindi un forte coinvolgimento dei docenti che hanno compreso la nostra politica, che non è di oggi perché è iniziata nel 2013. Mi sembra di aver capito, Rettore, che quello che state cercando di fare, la dico un po' brutale, di far lavorare di più i professori? Questo è parte, questo è parte del meccanismo, ma abbiamo anche deciso che invece di mettere barriere all'accesso, ovviamente i test dove ci sono per legge sono mantenuti, tipo medicina, sì, è una norma europea, quindi non c'è niente da fare, ma dove invece non ci sono per norma, per legge, abbiamo pensato che accompagnare gli studenti nell'ingresso e quindi fare dei test di autoapprendimento per il primo anno potesse portarli a un livello che è quello che poi i colleghi rettori richiedono quando si parla di qualità. E quindi elevare la qualità degli studenti, aumentare la produttività dei professori, questo è il concetto. La ricetta è quella. E poi ovviamente finché tiene, perché come sappiamo la situazione è critica, adesso le dichiarazioni del Ministero e della Ministra Fedeli sono importanti, stiamo a vedere con la prossima finanziaria cosa capiterà. Un ascoltatore la mette giù brutale, serve anche a racimolare più soldi in tasse universitarie, dice. No, questo è un punto importante, guardi che ogni studente rappresenta per l'università pubblica un costo, l'università pubblica non fanno profitto sugli studenti, uno studente costa al sistema 11.000 euro all'anno e paga in media di tasse 1.100, quindi questo è da chiarire, esattamente il contrario. Fare un'apertura di corsi significa fare un investimento sul futuro dei ragazzi e aumentare i costi per il sistema universitario. La ringrazio, grazie al rettore dell'Università di Torino, Gianmaria Aiani, e vedremo nei prossimi anni probabilmente quale scuola vincerà, se quella del numero chiuso o quella che vuole ridurre i test d'ingresso. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. In Corea, preparativi per un nuovo lancio di un missile, ha rinviato l'attesa reazione cinese, dice, e Pechino presenta una protesta formale. Gli stupri di Rimini, l'uomo arrestato mentre era in fuga, nega le violenze, è attesa per la giornata di oggi la convalida del fermo. I vaccini e le iscrizioni a scuola. La Lombardia prende tempo sulla proroga di 40 giorni che aveva immaginato, perché è arrivata una circolare del Ministero. Non vogliamo uno scontro col governo, dice il presidente della regione Maroni. Per quanto riguarda la notizia che vi abbiamo dato in apertura, ossia la strage, il processo d'appello per la strage del Rapido 904, ebbene, è stato il processo d'appello dovrà essere rifatto da capo perché il giudice va in pensione. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Come sapete, la puntata del lunedì è un po' più corta, quindi tra un attimo daremo la linea a Mario Platero e ad America 24, non prima di aver risposto alla domanda di un ascoltatore che ci chiede lumi su quello che è stato il nostro tormentone dell'anno scorso, le ricerche di Igor il russo Norbert Fehr, in fuga, come sapete, nelle campagne dopo aver assassinato un barista a Budrio e anche una guardia ecologica. Ebbene, le ultime notizie, perché poi Effetto Giorno non era in onda in quel periodo, il 28 luglio indiscrezioni e fonti di polizia hanno fatto sapere che un informatore lo avrebbe visto addirittura in Brasile, quindi l'ipotesi che avevamo fatto fin dall'inizio, che in realtà in quelle campagne non ci fosse, ma era già fuggito e se n'era già andato, sarebbe confermata. Vedremo che cosa succederà, se riusciremo mai ad arrestarlo. America 24.